2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 30 giugno 2012, benvenuti, bentornati a 2024, questa è anche la nostra ultima puntata della stagione, ma nessuna paura, non andiamo completamente in vacanza, ridurremo solamente la portata delle nostre notizie, invece che un'ora e 30 ogni weekend con una piccola replica la domenica, faremo mezz'ora il sabato, mezz'ora la domenica. Oggi potete telefonarci per anche salutarci in questa ultima puntata della stagione e anche per raccontarci quella che per voi è stata la notizia più importante, la tecnologia più interessante presentata in questa stagione, quindi dallo scorso autunno fino a questa primavera estate 2012. Il nostro numero verde per chiamarci in diretta è sempre quello di Radio 24, 800240024. Se volete mandarci un sms 349-238-6666, oppure potete andare nella nostra pagina Facebook, potete cercarla e trovarla molto facilmente scrivendo 2024 e lì potete mettere il vostro commento alla trasmissione di oggi. Ma come dico tutte le settimane, preferiamo sentire la vostra voce in diretta al nostro numero gratuito. Iniziamo dal primo tema che vi vogliamo proporre oggi, il videonoleggio digitale. Già da alcune ore per alcuni consumatori abbonati Sky e da alcuni giorni per alcuni clienti scelti come collaudatori è disponibile un nuovo servizio che si chiama Sky On Demand, un sistema che per ora viene lanciato solo per i clienti abbonati da oltre un anno e faccio la prima considerazione: per una volta, per la prima volta, si premia la fedeltà piuttosto che l'infedeltà, che è quella che si genera nel sistema a forza di fare offerte per i nuovi abbonati. Questo vale per il mondo delle TV a pagamento, ma vale soprattutto per gli operatori di telefonia mobile, un tema di cui parliamo spesso, quello della telefonia mobile, e in questo caso si genera una infedeltà nel sistema proprio perché le offerte vengono sempre e spesso fatte per i nuovi abbonati. Quindi in questo caso complimenti, perché l'offerta vale per quelli fedeli. Allora, si tratta di una evoluzione verso il video non lineare. Allora, di questo si parla da molto tempo, però fino a qualche mese fa c'erano pochi servizi, direi fino a un anno fa grosso modo c'erano pochi servizi, i servizi che esistevano su internet erano ancora poco maturi, ancora oggi aspettiamo delle evoluzioni interessanti, ma insomma con l'arrivo di Sky On Demand sicuramente qualche cosa cambia. Parliamo di una sorta di self-service del video. Quello che si faceva fino a poco tempo fa con la videocassetta e poi con il DVD, il Blu-ray, oggi si comincia a fare sempre di più con internet e lo scenario da qui a poco tempo, a pochi anni, sarà molto diverso. A fianco della TV tradizionale, che sarà ancora broadcast via satellite o via terrestre, cresceranno i sistemi e le piattaforme che offriranno film e altri contenuti video da scaricare dalla rete quando vogliamo. È un po' la logica del podcast. Sapete che io tengo spesso a sottolineare la semplicità, l'interesse che c'è nel podcast di molti dei nostri ascoltatori. Beh, insomma, questa è un po' la logica anche per il video. È interessante anche vedere come Sky stia accelerando questa trasformazione spinta anche dalla concorrenza di Mediaset e dalla concorrenza che è in arrivo dai grandi player della rete internet: Apple, Google, Amazon, Sony, Microsoft, altri nomi specializzati in questi servizi. Qualche cosa sta cambiando, come dicevo, nel mercato. Ma che cos'è Sky On Demand? Sentiamolo dalla voce di Paolo Agostinelli, che è vicepresidente di Sky e responsabile del Video On Demand. Stiamo parlando di un investimento che consentirà ai nostri clienti di trarre il massimo dall'abbonamento che hanno con noi e dall'investimento che fanno per portare la nostra televisione di qualità nelle loro case. Stiamo parlando di svincolare la visione dei migliori programmi dall'orario della programmazione lineare. È necessario avere un decoder MySky HD, quindi un decoder dotato di un hard disk, su cui abbiamo nei mesi scorsi downloadato il software che lo rende connettibile a internet. Ed è necessario che i clienti dispongano di una connessione internet in banda larga in casa. Nell'arco delle 24 ore successive alla registrazione sul sito, il servizio sarà disponibile sul set-top box, accessibile tramite la guida TV, premendo il tasto guida TV e poi scorrendo fino alla funzione on demand, oppure premendo il tasto rosso del telecomando da qualunque punto di accesso della televisione, comparirà la videoteca dei contenuti disponibili organizzati per area editoriale. Si potranno rivedere che tipo di contenuti? I contenuti vengono scaricati sull'hard disk, quindi la tecnologia che è utilizzata non è lo streaming ma il progressive download. Abbiamo fatto questa scelta per tutelare la qualità e la stabilità della visione. Quindi una volta scaricati i contenuti sono disponibili sulla porzione dedicata di MySky all'utilizzo personale del cliente e potranno essere rivisti tutte le volte che il cliente vorrà. Che tipo di contenuti ci saranno? Quindi film, sport, anche per quanto tempo saranno disponibili? Migliaia di contenuti al lancio, oltre 1200, già 2000 entro Natale, un refresh di un centinaio di contenuti a settimana, un totale di quasi 8000 titoli proposti nel corso del primo anno, tutte le aree tematiche, soprattutto film, oltre 600 al lancio, già 1000 entro Natale, tutta la programmazione di Sky Cinema disponibile on demand a partire dal giorno e dall'ora in cui il film viene proposto sui canali di Sky Cinema e poi le serie TV, quindi le migliori serie TV proposte dai nostri canali, Fox, e i programmi per bambini, i documentari, le news, lo sport. Questo è un servizio che voi paragonate alla video on demand di altri provider come Apple, o comunque lo paragonate con la vecchia videoteca, cioè a regime troveremo tutto, anche vecchi film, o fondamentalmente troveremo quello che vediamo su Sky e lo potremo rivederlo per un breve periodo sull'on demand? È una domanda interessante. È paragonabile sì e no, e non lo è nella misura in cui si tratta di un modo diverso per fornire ai clienti ciò che noi diamo, e ciò che noi diamo ai nostri clienti siamo convinti sia distintivo. È interessante che mi venga chiesto se a regime potremo trovare anche un vecchio film. No, lo potremo trovare da dopodomani, non a regime, perché l'offerta di Sky già oggi è fatta di 1000 titoli all'anno per quanto riguarda cinema, che comprendono sia i nuovi current, le uscite blockbuster sulle sale cinematografiche, ma anche i grandi classici. Il servizio è gratuito, giusto? Il servizio è completamente gratuito, è incluso nell'abbonamento, è un modo per migliorare l'equazione di valore dell'abbonamento dei nostri clienti. I nostri clienti ci chiedono di migliorare il value for time della nostra proposta, che apprezzano tutti e invariabilmente tutti. Siamo sicuri che sia un passo nella direzione giusta. Ecco, sempre legata a questa domanda, il tutto è legato all'abbonamento, cioè se io sono abbonato a cinema posso vedere i film, se non lo sono non lo posso vedere, giusto? Nessuna barriera all'utilizzo del servizio, quindi il servizio è utilizzabile da qualunque abbonato Sky abbia un MySky HD, qualunque sia il suo pacchetto. Evidentemente i contenuti visionabili on demand corrispondono a quelli che il cliente ha sottoscritto in abbonamento. Allora, a proposito di questa corsa verso l'on demand, va citata una notizia che vi avevamo dato qualche settimana fa, cioè che Sky, il gruppo internazionale, non Sky Italia, aveva acquisito la piattaforma Acetrax, che è già disponibile sulle piattaforme di smart TV di LG, Panasonic, Samsung e Toshiba. Quindi acquistando una TV di questo genere, che sia smart TV e quindi collegabili ad internet, si trova già l'icona di Acetrax, che è una piattaforma che eroga contenuti video on demand. Va detto però che Sky On Demand, in questo di cui stiamo parlando oggi, quello italiano, è un sistema progettato solo da Sky Italia, quindi almeno ufficialmente non c'è stato alcun travaso di esperienze da Acetrax, che continua a vivere di vita propria. A questo punto ci domandiamo, oltre a Sky, che cosa offre il mercato in Italia? Marco Dalli, della redazione del magazine digitale D-Day.it. Ci sono altri servizi, ad esempio il concorrente di Sky, quindi Mediaset Premium, ha già lanciato da circa un anno un servizio che si chiama Premium Play e che concettualmente è molto simile all'on demand di Sky, quindi si ha accesso a una library piuttosto vasta di contenuti cinematografici, documentari, serie TV, legati ovviamente al proprio abbonamento alla Pay TV. Anche in quel caso, cioè nel caso di Mediaset, bisogna essere abbonati e il servizio è gratuito. Esattamente, sì, il servizio è gratuito, ma ovviamente c'è bisogno di un abbonamento a Premium. Ci sono poi offerte dei canali generalisti, quindi Rai, Mediaset e La 7, che offrono i contenuti trasmessi nei giorni prima, quindi la Catch Up TV viene offerta in alcuni casi solo online oppure anche su decoder MHP. Ecco, possiamo ricordare il caso di Rai, non forse tutti lo sanno, ma se uno ha una Smart TV che può essere collegata ad internet e che quasi sicuramente ha una piattaforma MHP a bordo, Rai offre un servizio abbastanza interessante. Esatto, sì, offre la possibilità di rivedere tutti i contenuti originali della Rai, quindi tutte le varie serie TV, ma anche i telegiornali e speciali che possono essere stati trasmessi sui canali della Rai. Tra l'altro adesso in occasione degli europei che si stanno concludendo c'è anche stato il lancio di un'applicazione Euro 2012 che consentiva appunto di vedere le partite di calcio anche da diverse angolazioni, questo sia su smartphone che su altre piattaforme. E ci sono poi, entrando nel mercato di internet, delle soluzioni di on demand puro, quindi svincolate da un abbonamento a una pay TV, ma che consentono di noleggiare oppure acquistare un singolo titolo. Alcuni casi, ad esempio, abbiamo Ace Trax, c'è Chili che è stata da poco scorporata da Fastweb, e c'è ovviamente iTunes di Apple, ma anche la piattaforma di Sony, che qualcuno forse si ricordava col nome Curiosity, adesso ha cambiato nome, si chiama Sony Entertainment Network, e che appunto tutti questi servizi offrono la possibilità di vedere il contenuto che si desidera acquistandolo singolarmente. Quindi c'è bisogno di una carta di credito e ogni volta che si vuole fare l'acquisto verrà scalato da questa carta di credito il compenso dovuto per il singolo titolo. Quindi sicuramente nel caso di Mediaset e nel caso di Sky abbiamo la possibilità di vederlo facilmente sulla TV, perché abbiamo già il decoder, abbiamo tutto collegato alla TV. In questi casi ultimi che tu ci hai ricordato stiamo parlando di servizi invece che si utilizzano prevalentemente da internet, e poi per visualizzarli sulla TV dobbiamo collegare un computer ad internet, giusto? Alla TV? Non necessariamente. Ad esempio sia Strax che Chili hanno degli accordi con alcuni produttori di TV, per cui all'interno della piattaforma Smart TV di cui l'utente può essere in possesso c'è l'applicazione dedicata a questo store. Quindi Chile ad esempio è su LG, quindi chi ha uno Smart TV LG in casa potrà trovare l'applicazione Chili con cui accedere ai contenuti on demand. Lo stesso dicasi per Ace Trax, e ovviamente sui TV Sony esiste l'applicazione di Sony. Certo, pure per l'Apple uno deve acquistare l'Apple TV, che è una specie di piccolo decoder da collegare alla TV. Esatto, sì. Senti, in generale, secondo la vostra analisi, stiamo parlando di un mercato che è ancora poco maturo? Cioè, è vero che oggi sono in forte crisi i videonoleggi fisici, quello sotto casa dove posso noleggiare per pochi euro un DVD o un Blu-ray, però effettivamente se un videonoleggio è ben rifornito io trovo molti contenuti. Esiste un analogo online o su piattaforme televisive? Diciamo che in questo momento non è ancora stata trovata una piattaforma alternativa al videonoleggio classico che eravamo abituati sotto casa. In termini di contenuti. Quantità di contenuti. Esattamente, sì. Ci sono alcune soluzioni che ci stanno arrivando, ad esempio sia Sky, che è stata appena presentata, ma anche Mediaset Premium, offrono un catalogo piuttosto vasto, siamo sul migliaio di titoli. Però manca quello che in America sta facendo veramente da cavallo di battaglia, che sono servizi come Netflix, Hulu e Vudu, che a fronte di un canone anche piuttosto esiguo mensile offrono la visione illimitata in streaming di tutti i film che si desidera. Quindi questo modello, che in America sta andando veramente forte, che ha messo in crisi poi grandi player del noleggio come per esempio Blockbuster, al momento in Italia manca, un po' per le condizioni della rete, della banda larga in Italia, che non sempre è ottimale, un po' per forse la tendenza degli italiani a essere un po' pigri e accettare più di buon grado forse il palinsesto che la TV tradizionale gli impone, piuttosto che scegliersi di sera in sera cosa effettivamente si voglia vedere all'interno di un vasto catalogo. Numero verde per parlare con noi anche di questi servizi, se li utilizzate già, se vi piacciono, alcune considerazioni sui prezzi, che sicuramente sono una variabile importante per la diffusione di questi servizi. Dicevo, numero verde 800 24 00 24. Adesso ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da Strade e Autostrade. 2024. Questa è l'ultima puntata della stagione di 2024, poi in luglio e agosto andiamo in onda per mezz'ora il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, giusto per non perdere l'abitudine, ma questa è la nostra ultima puntata in diretta su Radio 24. A proposito di TV via internet, poco fa abbiamo parlato di TV on demand con il nuovo servizio Sky On Demand, che parte ufficialmente il 1° luglio, ma molti ascoltatori segnalano, beh, ascoltatori, non so, ho visto un po' di messaggi su Twitter e comunque anche alcuni hanno scritto sulla nostra pagina Facebook che questo servizio in realtà è già partito, già disponibile, insomma era tutto pronto, alcuni utenti addirittura erano già stati avvertiti settimane fa e sono stati utilizzati come beta tester, come collaudatori di questo Sky On Demand. Dicevo, a proposito di TV via internet, c'è un dato interessante sugli ascolti di Rai TV. Italia-Germania, la partita di calcio degli europei, ha raccolto via web 800.000 contatti con una crescita del 45% rispetto alla semifinale Spagna-Portogallo. Allora, naturalmente, se confrontiamo questi ascolti con la TV broadcast tradizionale via terrestre, su digitale terrestre, insomma su sistema tradizionale, sono molto pochi, ma la crescita è molto interessante e comunque vi garantisco che 800.000 contatti durante una partita di calcio vista in streaming televisivo è un numero sicuramente molto interessante. Adesso cambiamo argomento, vi parlo di una notizia che riguarda Mirandola, una delle zone colpite dal terremoto in Emilia. Ecco come la tecnologia cellulare, in questo caso, in generale comunque le tecnologie wireless, possono essere una soluzione veloce, rapida, per portare internet in aree più o meno vaste. Naturalmente l'ampiezza dipende dalla potenza irradiata, quindi questo non è un problema. Ecco che cosa è stato realizzato da una piccola azienda di Vicenza, ce ne parla Gianluca Verin di Atonet. L'esigenza è che era che mancava internet e la direzione della protezione civile del campo ovviamente voleva comunicare con i normali strumenti con cui è usa a comunicare, che sono mail, e inoltre non arrivava nessun numero telefonico, e quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo installato un sistema LTE di ultima generazione 4G portatile, trasportabile in circa un'ora. È la prima installazione del genere al mondo di sistemi 4G che vengono utilizzati per situazioni emergenziali. Quello che abbiamo fatto in un'ora è dare connettività a internet tramite la scuola media e darlo tramite questo sistema LTE. Questo è una sorta di hotspot, giusto? Sì, si può pensare come un hotspot, soltanto che fatto in tecnologia cellulare. Quindi questo sistema si aggancia ad internet da un punto dove naturalmente è disponibile la rete internet, in questo caso parliamo della scuola media di Mirandola, dove sono disponibili circa 20 megabits che poi vengono diffusi su un'area di circa un chilometro da questa antenna in tecnologia LTE. Al posto di LTE possiamo dire 4G, l'avete sentito, 2024, da tanto tempo, da tanti anni. In questo caso ci sono poi dei piccoli modem che trasformano il segnale LTE in Wi-Fi per creare dei piccoli hotspot Wi-Fi che i cittadini possono usare con i loro strumenti, smartphone, computer, tablet, eccetera, eccetera. Va detto che stiamo parlando di condizioni particolare, tutto ciò è possibile grazie alle autorizzazioni di cui gode la protezione civile, perché normalmente la tecnologia cellulare può essere utilizzata solo dai quattro operatori telefonici italiani che hanno, come sapete molto bene, pagato anche molto care le licenze per operare in GSM, in 3G o MTS e tra qualche mese 4G o LTE. Ricordiamo che infatti questa tecnologia sarà disponibile, è già disponibile in alcune parti del mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Arriverà in Italia tra la fine dell'anno e l'inizio del 2013. Molto interessante. Il nostro numero verde 800 24 0024 l'ha chiamato Gianpietro da Pavia. Buongiorno Gianpietro. Buon pomeriggio, complimenti per questa bella annata trascorsa e con tutti i consigli che ci date. Continuiamo anche il prossimo anno, quindi facciamo un po' di quasi vacanza. Un po' di relax, esatto. Ci vuole. La banda larga è molto importante per quello che dite voi sui segnali, sugli on demand, eccetera. Io ho la fortuna di essere a 200 metri dalla centrale, però c'è ancora il rame a Pavia. E speriamo che la fibra arriverà, ma quando non si sa, vedremo un po'. Comunque sono fortunato, non mi lamento, 20 mega è già un buon segnale. Addirittura, no? Beh, allora insomma, uno di quelli fortunati. Fortunati, come dicono, esatto. Sì. Ecco, io ho sperimentato, aspetto domani per l'on demand Sky, mentre Mediaset Premium bene, e benissimo invece tutta la nuova logistica della Rai. della Rai On Demand veramente con i decoder esterni, non ancora il televisore, quello con l'MHP interno. Esatto, tutto con i decoder delle system esterni, ma veramente uno spettacolo. Sì, devo dire che... per chi lo sa usare, è naturale che sa, ci vuole il cavo Ethernet oppure il wireless se uno ha distante il modem dalla sala o dall'apparecchiatura televisiva, però veramente è uno spettacolo. Peccato che è ancora di nicchia, perché sono novità che stanno sfiorendo adesso, giusto o sbaglio? Esattamente, però lei ci sta dicendo che quindi ha rivisto sulla propria TV con il decoder dei programmi di Rai. Dunque, vastissimo l'on demand, vastissimo. Allora, ci sono due tipi di, dunque c'è l'europeo, dove puoi rivedere dalle interviste a tutte le partite, a tutti i gol. Sì, veramente infatti... una cosa eccezionale. C'è uno a tutto. Cioè, se è appassionato di calcio puoi rivedere dalla prima partita, dalla prima intervista, da tutti i servizi che vanno nelle varie rubriche della Rai, a tutti i gol scalinati come vuole. Veramente, fatto bene, complimenti. E poi... vede che per una volta diciamo delle cose positive sulla Rai, che in effetti su internet si sta comportando molto bene. Stavo infatti guardando questo servizio. E l'ultima cosa, prego. Anche nell'on demand ci sono i tre canali Rai più Rai 5, dove lei può vedere tutta la settimana. Di ogni canale, escluse dei programmi dove non hanno la... Senta, le faccio una domanda, abbiamo però 30 secondi, lei ha detto aspetto domani per Sky On Demand, quindi lei è anche un utente di Sky. Ah, quindi è pronto? Sì, sono pronto, sono in ansia, la nuova IPG è pronta, è tutto pronto e sono curioso. Alcuni... Perché ha detto che oltre ai film che ci sono già scaricati, se ne possono scaricare in tempo reale. Sì, altri, sì, esattamente. Grazie. Proprio. Grazie a lei Gian Pietro per averci chiamato e per averci seguito in quest'annata. Bene, sono le 15:56 minuti, avete sentito dalla viva voce di uno dei nostri ascoltatori che abbiamo scelto tra quelli che hanno chiamato il nostro numero verde 800-24-0024, potete continuare a chiamarlo. Tra poco parleremo anche di Google e non solo del nuovo tablet che è stato presentato, parleremo anche di una operazione che è stata messa a segno dalla polizia, quindi parleremo di cybercrime, quindi potete continuare a chiamarci oppure a inviare sms, utilizzare la nostra pagina Facebook o anche seguire il nostro tweet. Ci risentiamo dopo le notizie di GR24. 2024. Alle 16:07 minuti riprende 2024, io sono Enrico Paglierini, saluto anche Franco Piantanida che oggi ci aiuta in regia e Valeria Bernardi che si occupa della parte tecnica. Oggi, visto che questa è l'ultima puntata della stagione, cioè puntata in diretta con le telefonate, gli ascoltatori eccetera eccetera, naturalmente Radio 24 ci ha dato il meglio in regia. Dunque adesso sentiamo i nostri ascoltatori. Massimo da Venezia, buongiorno Massimo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno dottor Paglierini. L'ascoltiamo, che cosa ci racconta? Ci vuole parlare di Sky, giusto? Sì, perché io sono un beta tester di Sky On Demand e lo scopro adesso, nel senso che ero un beta tester inconsapevole, ero convinto che tutti avessero Sky On Demand, invece pare di no, mi pare. Eh sì, esatto. Sì, ufficialmente parte da domani, poi ci sono stati alcuni che sono stati avvisati qualche settimana fa e... con un messaggio di Sky dicendo guarda che stiamo partendo con questo servizio e quindi ci piacerebbe il tuo parere. Altri se ne sono accorti ieri l'altro, perché naturalmente sono che accendano tutto questa notte, però e quindi lo ha già usato? Sì, è un ottimo servizio, consente di rivedere per circa una settimana tutta una serie di programmi che fanno parte dei pacchetti che però si possiede, quindi io per esempio ho intrattenimento, cinema, sport, calcio, certo. E news, e posso vedere quelli non posso vedere on demand, programmi appartenenti al canale musico, bambini o altro. Molto interessante, fra l'altro c'è anche la funzione, si possono anche registrare e non serve guardare tutto come registrando la televisione normale, guardare tutto il programma, aspettare la fine del programma perché venga registrato, basta schiacciare il tasto record e immediatamente viene trasferito sul proprio hard disk domestico. Sì. Senta, ha un buon collegamento ad internet lei? Quindi soddisfatto, perché Sky ha scelto una tecnologia che si chiama Progressive Download rispetto ad altre tecnologie come quella che ad esempio utilizza Mediaset, che fa grosso modo uno stream, cioè niente grosso modo, fa uno streaming. Invece il Progressive Download permette di scaricare una piccola porzione di contenuto, poi quando il sistema capisce che quel contenuto è sufficiente per vederlo in tranquillità, ce lo fa vedere. In questo modo si evitano le interruzioni involontarie causate da reti internet magari non molto performanti. Comunque lei è soddisfatto del suo collegamento ad internet? Sono molto soddisfatto, sì, sono molto soddisfatto. Abita a Venezia, non per farmi gli affari suoi, ma abita a Venezia, diciamo, in laguna o in... Abito in terraferma, Margherita. Terraferma, quindi magari lì è più facile avere un collegamento buono, anche se è vero che a Venezia è stata messa anche un po' di fibra. Massimo, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon grazie lavoro. Grazie a lei e buona giornata. Beh, più che buon lavoro, buon weekend, visto che siamo a sabato pomeriggio. Dicevo all'inizio della nostra trasmissione che oggi vogliamo sentire anche la vostra voce per parlarci di servizi che vi sono piaciuti in questo anno, di tecnologie che sono state presentate durante quest'anno, che magari avete anche ascoltato e scoperto 2024, quindi potete darci il vostro parere, una vostra considerazione, la vostra opinione al nostro numero verde 800240024. Se preferite l'SMS, ma noi diamo la prevalenza, insomma, la precedenza alle telefonate, comunque SMS 349-238-6666 e anche la nostra pagina Facebook. Allora, avevamo previsto un po' di notizie della settimana, ma le rimandiamo verso la fine della nostra trasmissione. Adesso, prima di collegarci con la California, con Carolina Milanesi, per parlare di Google, volevo concludere alcune considerazioni sulla tecnologia 4G, l'LTE che è stato utilizzato a Mirandola per portare internet in una zona dove c'era solo un collegamento, che era quello della scuola, nella tendopoli, e comunque anche nelle infrastrutture messe in piedi dalla protezione civile mancava internet. Allora, ci sono vari motivi per cui è stata scelta questa tecnologia, non ultima la capacità di banda del 4G, che permette, nel caso in questione, insomma, di Mirandola, di fare video streaming con una serie di telecamere senza fili collegate alla rete in funzione antisciacallaggio. Naturalmente ci sono altre tecnologie che possono essere utilizzate in situazioni di emergenza, come ad esempio il satellite, che permette in modo molto veloce di mettere su un impianto collegato ad internet, ma questa che vi abbiamo presentato è sicuramente molto interessante, anche perché è una specie di anticipazione del 4G che arriverà verso la fine dell'anno, inizio 2013, anche in Italia. Dunque, dicevo che questa settimana c'è stata a San Francisco Google I/O, che è la conferenza dedicata agli sviluppatori del mondo Android, del mondo Chrome, ma soprattutto Android. Come tutte le conferenze di questo genere, è stata seguita da Carolina Milanesi, che è vicepresidente di Gartner con una responsabilità specifica nel mondo dell'elettronica di consumo. Carolina, bentornata a 2024. Buon pomeriggio. Potremmo dire che questa conferenza conclude questa serie anche piuttosto intensa di appuntamenti. Prima di farti delle domande specifiche su alcuni temi che sono stati dibattuti durante questa conferenza, a tuo parere che cosa ti è piaciuto di più, ti è interessato di più di questi giorni dedicati agli sviluppatori del mondo Android prevalentemente? Ma è stato interessante, diciamo, la cosa che ha intrattenuto di più l'audience è stato sicuramente il lancio coi paracaduti sul tetto del Moscone Center, però al di là di quello, per me è stato interessante poter fare un confronto tra il messaggio che è uscito dal mondo di Google rispetto a Microsoft e a Apple. E siamo arrivati ad un punto dove le piattaforme sono centrali su tutto ormai, no? Nel punto di vista dei consumer devices, però l'importanza, diciamo, degli sviluppatori varia un pochino. Anche all'interno di Google in sé c'era una marcata differenza tra quello che era stato detto lunedì agli sviluppatori per Android rispetto a veramente come la parte di Chrome il giorno dopo era stata messa proprio tutta centrata sugli sviluppatori, anche a livello tecnico molto molto dettagliato. Quello che è interessante senz'altro, se si guardano le varie conferenze, è il numero di persone che adesso sono coinvolte nello sviluppo di applicazioni, persone che molto spesso hanno un lavoro diurno che è ben diverso. Ho incontrato professori di maestri di scuola, ho incontrato gente normale che va in ufficio e fa amministrazione, e guidatori di autobus che poi sviluppano applicazioni. Questo è molto interessante ed è indicativo di come sta cambiando il mercato e di quanto anche il mondo delle app sia, da un certo punto di vista, semplice e quindi abbracci una platea molto varia. Mi ha incuriosito la cosa che ci hai detto poco fa dei paracadutisti. C'era una motivazione o era solo per fare un po' di spettacolo? Era spettacolo, ma legato al nuovo prodotto che hanno che stanno testando, che è quello, sono gli occhiali dove hai quello che chiamano glass, e sono degli occhiali dove c'è una fotocamera che permette di fare video e fare fotografie, che adesso metteranno in distribuzione in maniera limitata per gli sviluppatori che erano a IO qui questa settimana, per $1,500 da utilizzare solo in America al momento per problemi di legge, ma che poi penseranno di portare sul mercato magari nei prossimi 2 anni. E sono appunto degli occhiali che hanno dei sensori, hanno una telecamera e ti permettono di fare sharing di un momento particolare della tua vita, a prendere fotografie in maniera molto naturale senza avere, diciamo, l'intrusione di una macchina fotografica vera e propria. E quindi i paracadutisti avevano questi occhiali e tu hai seguito il lancio e poi l'atterraggio del paracadutista tramite, vedevi quello che vedeva lui, che quando hanno atterrato, a dire la verità, era anche un po' preoccupante. Certo, anche perché uno potrebbe dire, sapere se mai indosseremo occhiali del genere, sapere che poi qualcuno, che potrebbe essere in questo caso Google, vede tutto quello che vediamo noi, può aprire degli scenari anche non dico preoccupanti, ma che insomma ci fanno saltare fuori dal cervello tanti punti interrogativi. Ma avremo tempo per tornare su questo tema, perché come giustamente tu ricordavi, dal prossimo anno verranno distribuiti in numero limitato solo negli Stati Uniti a $1,500, quindi non è, ecco, forse i maestri e i guidatori di autobus per il momento non se li potranno permettere questi occhiali, quindi ci sarà tempo per riparlarne. Adesso noi ci fermiamo per un minuto, notizie che arrivano da strade e autostrade. Siete all'ascolto di Radio 24, questo è 2024, ci risentiamo tra poco. 2024. È con noi a 2024 Carolina Milanesi, vicepresidente di Gartner, collegata con noi dalla California. Carolina, molti sono rimasti affascinati, colpiti dalla notizia del nuovo tablet presentato da Google, il nuovo Nexus. Allora, tu ritieni, voi a Gartner, ritenete che questa sia stata la notizia più interessante o in realtà dietro all'hardware c'è ben altro di interessante? Ma per me l'hardware per sé non è così importante. È importante il messaggio che lancia, che ha delle implicazioni secondo me molto serie per i produttori di tablet. E questo messaggio è che per riuscire a vendere nel mondo dei tablet, se il tuo marchio non è Apple, ci dobbiamo spostare dai $400 in su e arrivare ai $200, al prezzo che Amazon ha messo sul mercato il Kindle Fire in America, e che i consumatori fino adesso vedono come un prezzo accessibile che sono disposti a pagare anche quando magari il numero di applicazioni dedicate rimane limitato. Secondo me però il problema di Android non è mai stato l'hardware, nel senso che se guardiamo al 2011 al numero limitato di devices, di tablet su Android che sono stati venduti, non è perché l'hardware non era fatta bene, non era elegante, non era di alta qualità, È perché il prezzo era troppo alto, sì, senz'altro, ma anche perché dal punto di vista dell'ecosistema c'era un po' di debolezza. Se io sono un consumatore che ha un telefonino smartphone a fascia alta e ho tutte le mie applicazioni, perché spendere altri soldi per un tablet quando in realtà non vedo un valore aggiunto che mi viene dato? Quindi è stato interessante vedere come il lancio di questo tablet è stato unito a un Google Play, che senz'altro è stato molto più presente che non quando si chiamava Android Markets, ma anche perché questo Google Play adesso è diventato uno store molto più ampio, che non è solo per applicazioni ma per contenuto. E contenuto è quello di cui ha parlato Google, quindi si è parlato che dei film, delle serie televisive, della musica, e questo tablet arriverà sul mercato con $25 di credito sullo store, con un film, un paio di libri e delle riviste. È interessante che questo era l'argomento quando avevano un audience, una platea piena di sviluppatori. Sì, che forse non erano i destinatari proprio di questo messaggio. No, è che forse volevano sentirsi dire che sono loro che fanno la differenza e quali sono, diciamo, i mezzi che Google metterà a disposizione perché loro facciano modo, possano monetizzare, quindi fare più soldi e riuscire a portare sul mercato più applicazioni in questo ecosistema. Invece di questo se ne è parlato su sessioni particolari, c'erano molte sessioni diciamo più a livello di per insegnare agli sviluppatori a entrare più nel dettaglio tutta la settimana, quindi senz'altro se ne è parlato, ma in realtà non nella, diciamo, nella sessione plenaria, dove invece per esempio se si paragona alla conferenza di Apple, senz'altro se ne sente parlare. Senti, questo è un tablet che ha una dimensione di 7 pollici, alcuni hanno, ma del resto anche tu ci hai ricordato, il Kindle Fire, che sta ottenendo negli Stati Uniti un buon successo di vendite, quindi sicuramente va a competere più verso il Kindle Fire, che tra l'altro ha una versione molto particolare di Android, anche se magari non ci si accorge che è Android perché è trasformato da Amazon. Quindi più che rubare mercato ad Apple, andrà a rubare mercato a Kindle Fire, e tutto ciò poi lo vedremo presto in Europa, visto che sta arrivando, insomma, tra qualche mese, diciamo settembre-ottobre, dovrebbe arrivare il Kindle Fire anche in Europa, e tra poco, tra un paio di settimane, massimo agosto, anzi le ultime notizie dicono di agosto, arriverà anche il tablet di Google, quindi Nexus 7. Sì, senz'altro il Kindle Fire è, diciamo, il target primario per Google, a tal punto che quando stavano parlando di Google Plus, sono arrivati a dire: ah, ma se voi siete anche un utente che ha un iPad, abbiamo pensato anche a voi e abbiamo fatto un'applicazione per Google Plus per iPad che sarà bellissima, tenendo in considerazione il display con retina display di iPad. Se fossero effettivamente interessati a vendere prodotti invece che non a vendere servizi e a vendere un'esperienza, e quindi a diciamo cattivare l'utente e tenerlo nell'ecosistema di Google, certamente pubblicità all'iPad non l'avrebbero fatta. Quindi dici, sono interessati fino ad un certo punto all'hardware. Sì, l'hardware diventa, diciamo, un po' un amo per prendere il consumatore e tenerlo all'interno dell'ecosistema. Questa è la funzione dell'hardware. Certo, però tu ci dici, se poi l'hardware non è il nostro, quello di Google, non ci importa nulla più di tanto. No, anzi, se l'hardware non è il nostro, comunque ti vogliamo come utente, comunque ti vogliamo all'interno del nostro sistema, perché tanto noi a livello di revenue, la revenue non viene dall'hardware, ma viene, infatti abbiamo visto anche degli articoli che hanno espressamente detto che Google Andy Rubin ha detto che loro non, soldi non ne fanno sul Nexus 7, che poi ti fa chiedere, allora Asus cosa fa? Se non fa soldi Google, chi li fa? Li fa? Dubito che li faccia Asus. Certo. Quindi ci stai dicendo insomma che la strategia è molto simile a quella di Amazon fondamentalmente, perché anche sul Kindle Fire Amazon non ci fa tanti soldi. Esatto, è simile perché tutte e due hanno lo stesso diciamo goal, di, visto che l'Italia ha vinto usiamo un termine che per adesso è positivo, quindi hanno lo stesso goal di non fare soldi da hardware ma dai servizi e delle applicazioni, e quindi usano appunto un livello di sussidio, se vuoi, sotto un certo punto di vista sull'hardware in maniera da attirare l'utente. Sì, molto interessante questo scenario che ci fa vedere anche le differenze tra queste due aziende, questi due colossi e Apple, che invece fa un sacco di soldi dall'hardware. Ti faccio due domande per i più curiosi, ma in effetti anche perché una domanda su Chrome ci fa capire un altro pezzo dello scenario, della strategia di Google. Ci sono stati degli annunci un paio di anni fa su Chrome, che è diventato anche un sistema operativo destinato a computer portatili fortemente pensati per il cloud computing, per essere collegati in rete, cioè i Chromebook. E c'è chi si domanda che fine ha fatto questa strategia? Si sa qualche cosa in più? Ma Chrome è senz'altro presente e ne hanno parlato in maniera prevalente nel secondo giorno, però non a livello di hardware. L'unica cosa che hanno detto a livello di hardware è che ci sono più design, che sono migliorati e che ne arriveranno di più sul mercato e apriranno anche a mercati internazionali. Quello che invece hanno continuato a far vedere è che cosa vuol dire essere in un mondo Chrome, dove io posso incominciare a lavorare. È interessante ancora che diciamo il demo che hanno fatto, la dimostrazione che hanno fatto è partita da un MacBook Air, e quindi ti facevano vedere che iniziavano a lavorare su un MacBook Air, poi chiudevano la sessione, andavano in ufficio, c'era un altro computer, facevano login su quel computer, e quindi praticamente è la tua presenza di utente e il tuo login su qualsiasi applicativo che tu puoi avere, il computer dell'ufficio rispetto al computer di casa, il tuo telefono piuttosto che il tablet, e una volta che fai il login hai tutto quello che ti serve, al punto tale che se stai lavorando su un documento oppure che se avevi aperto una pagina dell'internet, ti ritrovi esattamente nella stessa posizione. Sì, quindi anche in questo caso è più importante l'esperienza utente sulla piattaforma, sul mondo Google, che il resto. E mi sembra di capire che quindi hanno parlato molto di Chrome come browser, quindi come porta di accesso al mondo Google, più che sistema operativo, che vedremo poi che fine farà, perché alcuni dicono che potrebbe fondersi il tutto con Android, ma questo lo vedremo nei prossimi mesi, anni, eccetera, eccetera. Carolina, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, e non so se negli Stati Uniti siete già in area di vacanze, qui abbastanza. Beh, sicuramente per il 4 di luglio ci prendiamo un giorno, poi vedremo, speriamo un po' più di calma, perché giugno è stato veramente di fuoco con tutti questi annunci. Prima di lasciarti ti ricordo però, visto che tu sei negli Stati Uniti, che lo scorso agosto negli Stati Uniti ci sono state tantissime notizie, quindi fai presto a fare le vacanze in luglio, perché ti aspetta un agosto intenso, se è vero che anche quest'anno insomma ad agosto ci saranno altri annunci. Grazie e buon lavoro, a presto. A presto. Bene, grazie e un saluto a Carolina Milanesi, collegata con noi dalla California, dove questa settimana si è tenuta, diciamo a questo punto, l'ultima delle grosse conferenze per sviluppatori dopo Apple, Microsoft e Google. A proposito del nuovo tablet di Google, il Nexus 7, allora, notizia ufficiale confermata da Asus Italia, noi diciamo Asus, negli Stati Uniti dicono Asus, arriverà in Italia ad agosto, è vero che agosto c'ha 30 giorni, insomma adesso vediamo quando arriva. Allora, nella versione da 16 giga 249 euro, anche in questo caso, ma ormai dobbiamo abituarci che le aziende fanno la traduzione da euro a da dollaro ad euro a 1 a 1, quindi non tenendo conto del cambio, anche se è vero che i prezzi che vengono diffusi negli Stati Uniti, quindi in questo caso 249 dollari, è sempre senza tasse, quindi vanno aggiunte le tasse che dipendono da paese a paese e quindi non sono mai 249 dollari, sono un po' di più, quindi si avvicinano sicuramente ai 249 euro, ma in alcuni casi anche con il cambio a questi livelli converrebbe comprare negli Stati Uniti, ma attenzione perché poi quando si torna si dovrebbero pagare le tasse della dogana. Chiudiamo questa parentesi, tra poco parliamo di cybercrime, di sicurezza informatica con il capo della Polizia Postale delle Comunicazioni Antonio Apruzzese. A tra poco. 2024. Adesso parliamo di un'operazione, di un paio di operazioni che sono state messe a segno anche grazie alla collaborazione della Polizia Italiana. Da circa due anni di indagini sotto copertura, dopo circa due anni di indagini sotto copertura, l'FBI ha scoperto e bloccato una rete di criminali specializzati nel furto di numeri di carte di credito. È un'attività molto diffusa su internet. 24 persone sono state arrestate in 13 paesi in tutto il mondo, tra cui l'Italia, e grazie a questo colpo l'FBI ritiene che siano stati protetti circa 400.000 potenziali vittime e risparmiati, si fa per dire, 205 milioni di dollari di frodi. Insomma, sono state evitate frodi per 205 milioni di dollari. Dicevo che a questa operazione, ma anche ad un'altra operazione, ha partecipato la Polizia Italiana. Allora saluto, collegato dal nostro studio di Roma, Antonio Apruzzese, che è capo della Polizia Postale delle Comunicazioni. Benvenuto a 2024. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Partiamo da un paio di operazioni che sono state messe a segno da poche ore, potremmo dire. Allora vogliamo partire da queste operazioni. La prima che vi ha visto coinvolti assieme all'FBI, che da due anni teneva d'occhio un sito internet, ma anche un'organizzazione che rubava carte di credito. Avete partecipato e avete arrestato una persona anche in Italia. Di che cosa si è trattato? Si è trattato dell'arresto di un cittadino pakistano che viveva a Milano e che è stato arrestato dal nostro compartimento di Milano, il compartimento di Polizia delle Comunicazioni di Milano, e nell'ambito di questa operazione internazionale coordinata dall'FBI, quindi dalla polizia americana, su una banda molto agguerrita, molto, molto diffusa nel mondo, che gestiva fondamentalmente numeri di carte di credito rubati, e era un vero e proprio mercato di acquisto e di rifornimento di dati riservatissimi che venivano poi utilizzati per fare frodi in quantità industriale. Questo è un crimine abbastanza diffuso, quello del furto delle carte di credito per poi rivenderle e poi riutilizzarle, giusto? Sì, è una inevitabile conseguenza di tutto ciò che è il sistema digitale e quindi della sua applicazione nel mondo del commercio, quindi l'e-commerce e anche dell'home banking, perché è incentrato nel furto dell'identità digitale. Oggi si fanno gli acquisti con le carte di credito perdendo l'identità vera e acquisendone una numerica, una sfilza di numeri. Rubando quei numeri ci si sostituisce ai legittimi titolari. Senti, in questo caso deve stare attento chi utilizza la carta di credito, o è un problema della istituzione che gestisce la carta di credito? Cioè chi è che deve tenere gli occhi aperti? Guardi, è mai come in questo settore vi è un problema di corresponsabilità e di condivisione di oneri. Sicuramente i gestori dei sistemi di carte devono essere molto attenti, lo sono già in maniera abbastanza avanzata, collaborando in pieno con le istituzioni pubbliche, quindi con noi in particolare, con le forze dell'ordine, con la polizia. ma molta attenzione deve essere prestata anche dagli utilizzatori, quindi dagli users, quelli che tutti noi quando compriamo tutti quanti noi quando esattamente perché alle volte dimentichiamo che quei dati sono dati riservati e che se finiti in mani sbagliate possono essere poi avere conseguenze molto molto sgradevoli. Quindi ad esempio controllare quale sito viene utilizzato. Sicuramente insomma i siti più blasonati, più noti sono sicuri, così come sono sicure le istituzioni più conosciute e note tra quelle che utilizzano e mettono a disposizione carte di credito. Voi avete eseguito anche un'altra operazione, parliamo sempre di crimine informatico, ma in questo caso parliamo di phishing, cioè di quella tentativo che alcune organizzazioni fanno di inviare migliaia, o meglio dire milioni di email che ci chiedono dati tipo sono scadute le credenziali del tuo home banking, puoi inserirle in questo form che ti presentiamo? In questo modo spesso vengono rubati. Ecco, quest'altra operazione in che cosa è consistita? Ecco, guardi, io mi fermerei all'ultima parte della sua domanda che proporrei come spot pubblicitario da lanciare in maniera diffusissima e quasi martellante su tutti i mass media. Questi inviti a rinnovare le credenziali, ad aggiornarle, che vengono fatti in queste forme così anomale, queste mail, sono tutte dei tentativi di truffa, perché non bisogna mai e poi mai rispondere. E nel dubbio non rispondere, perché il problema è proprio questo, il minimo dubbio non rispondere. Qualunque invito di questo tipo è anomalo, è illecito e quindi non rispondere. Detto questo, l'operazione è stata complessa perché c'erano stati una serie numerosissima di tentativi di phishing. Le credenziali erano state rubate, quindi erano stati rubati i codici di utilizzo dei conti. E sono stati fatti dei lavori di contenimento da parte nostra in strettissima collaborazione con i gestori dei sistemi che hanno permesso di limitare i danni, di bloccare questo iter criminoso in corso e di evitare perdite finanziarie notevolissime per gli utenti. Sono stati tuttavia prelevati più di 2 milioni e mezzo di euro, quindi diciamo una buona parte di questo tentativo di phishing è andata a buon fine. Sì, una parte sì, però calcolando la rete che era stata allestita dall'organizzazione, come ben saprete parliamo di circa 40 persone arrestate oltre a un sacco di altre denunciate, quindi una ramificazione vastissima. Il danno inferto dall'organizzazione è stato notevole, ma sicuramente le quantità del danno sarebbero state enormemente più ampie se non ci fosse stata questa attività di contenimento, tutta una serie di accorgimenti tecnici che abbiamo posto in essere insieme ai gestori. Senta, se lei dovesse fare una valutazione sulla capacità, anche considerando le forze in gioco, la disponibilità di uomini e di tecnologie che abbiamo in Italia, ma allargando il quadro anche, se vogliamo, all'Europa, visto che queste cose, o al di là dell'Europa, visto che, come dicevamo prima, che avete lavorato con l'FBI, se paragoniamo questo tipo di azione con la lotta al crimine tradizionale, a che punto siamo? Perché diciamo alcune valutazioni anche l'uomo della strada è in grado di farle sulla capacità delle forze dell'ordine di combattere il crimine tradizionale. Ecco, in questo caso è molto più difficile guardare dentro alla rete. Guardi, lei parla di organismi internazionali, di strutture internazionali, di bande internazionali e io le rispondo con un termine internazionale, quindi di termini anglosassoni, parliamo di working in progress perché è un lavoro di costruzione che stiamo facendo giorno dopo giorno ed è un lavoro che è basato sul concetto basilare della forte cooperazione. Cooperazione internazionale perché il crimine informatico supera le barriere di confine e quindi interessa tanti stati, cooperazione fortissima anche a livello di pubblico-privato all'interno dei vari stati. Ci stiamo lavorando da tempo, siamo già in fase avanzatissima con il sistema bancario, cioè c'è un'intesa che è sempre più forte e i risultati si vedono con tutto il sistema di poste che è sempre più informatico, le difese le stiamo alzando sempre di più in maniera progressiva. Senta, io negli ultimi direi mesi ho fatto più volte delle verifiche per capire da esperti, da varie istituzioni, come le forze di polizia si stanno comportando, e devo dire che più volte mi è stato confermato che ci sono delle competenze molto elevate. Però volevo capire da lei, naturalmente per fare tutto ciò servono dei tecnici, servono delle specializzazioni. Riuscite a trovarle, a formarle facilmente, o ci sono effettivamente delle difficoltà? Guardi, una delle nostre più grandi sforzi è proprio quello della qualificazione professionale dei nostri operatori. La polizia sta allacciando dei rapporti sempre più stretti con le migliori università italiane specializzate nei settori tecnici e di alta tecnologia per addestrare gli operatori. Li mandiamo a frequentare dei master di alto livello. È chiaro che questa è una sfida che si può combattere soltanto su un piano di altissima qualificazione, quindi è un impegno che deve essere sempre più forte per noi. Senta, le faccio una domanda pensando ai nostri ascoltatori, che in buona parte sono anche magari utilizzatori di sistemi informatici, stanno su internet, magari acquistano online. Quali consigli possiamo dare per far sì che queste truffe, queste attività criminali vengano ridotte? Perché adesso, oggi abbiamo parlato di alcune, non abbiamo parlato del furto di identità, che è un altro dei temi molto importanti. Però guardando a quello di cui abbiamo parlato, phishing, commercio elettronico, furto di numeri di carte di credito, a cosa dobbiamo stare attenti per facilitare anche il vostro lavoro, insomma? Guardi, la prima cautela è appunto quella che ricordavamo all'inizio, ed è quella di fare massima attenzione a non cadere in queste esche banali, in queste richieste estemporanee di verifiche, di conti, di rivelazioni di dati sensibili. Assolutamente negarsi. Nessuno ci obbliga a nulla nei collegamenti di internet. Ricordarsi sempre di questo. Quindi è difficile, è quasi impossibile che la banca ci chieda di inserire dei numeri. È impossibile. È impossibile. Tutte le banche, Poste Italiane, la stessa cosa, martellano tutta la loro clientela dicendo: attenzione, noi non vi manderemo mai mail di richiesta di dati. Quindi su questo tutti devono essere tranquilli. Poi prestare molta attenzione anche alla gestione del proprio computer, perché oggi c'è una fortissima diffusione di virus, di programmi informatici malevoli che alterano le funzioni del computer e potrebbero determinare furti di identità digitali e quindi guai per noi, indipendentemente dalla nostra volontà, ma per un semplice malfunzionamento della macchina. Quindi questo sicuramente è un consiglio, diciamo, più di carattere tecnico e nel primo caso più di carattere comportamentale. Comportamentale, esattamente. Senta, quante persone lavorano nelle strutture che fanno capo alla Polizia Postale delle Comunicazioni? Perché voi avete anche un paio di centri specializzati, insomma, tecnologicamente molto avanzati. Sì, la Polizia Postale delle Comunicazioni ha una diffusione regionale, con dei compartimenti regionali, delle sezioni provinciali, e poi ha un centro a Roma, dove ci sono peraltro due dei nostri centri più importanti: il centro per il contrasto della pedopornografia online, che è un po' una delle nostre principali missioni, e poi l'altro, il centro per la tutela delle infrastrutture critiche informatizzate, centro di rilevanza strategica nazionale sicuramente. Per un totale di quante persone? Siamo circa 1800 persone distribuite sul territorio nazionale. Dovreste essere di più oppure è un numero adeguato? Guardi, il problema oggi non è il numero, non è la quantità, ma la qualità. E il nostro sforzo maggiore è proprio proteso ad elevare il livello qualitativo della professionalità. Dottora Pruzzese, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro a lei e anche a tutte le persone che lavorano con lei. A presto. Grazie ancora a voi, grazie, buongiorno. Adesso noi ci fermiamo per un minuto, tra poco abbiamo alcune notizie della settimana e vorrei fare anche alcune considerazioni su quello che abbiamo detto poco fa, perché io so che sentendo alcune notizie alcuni più scettici dicono: ah, visto che io faccio bene a non utilizzare la carta di credito e utilizzare il denaro contante, beh, nulla di più sbagliato. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Abbiamo parlato di queste operazioni per bloccare alcune reti criminali che in un caso cercavano di rubare credenziali per accedere a servizi di home banking o altri servizi finanziari mandandoci email civetta, come vengono definiti, di phishing, e queste organizzazioni mandano miliardi di email e ogni tanto qualcuno cade nella trappola, un po' come quando il tecnico falso del gas o della corrente elettrica viene a casa nostra e ci chiede soldi. Nessuna azienda chiede soldi e nessuna azienda, che sia banca, le poste eccetera eccetera, chiede credenziali d'accesso al nostro sistema di home banking via mail, come diceva poco fa il capo della polizia abruzzese, insomma ci ricordava questo comportamento da tenere. Allora, quando si parla di crimine informatico, molti tra i più scettici naturalmente dicono io faccio bene a non utilizzare le carte elettroniche perché così evito questi problemi. Allora, ci sono dimostrazioni, dati a disposizione, ma ne abbiamo parlato spesso, 2024, l'abbiamo commentato più volte, 2024, che dimostrano che il mondo digitale, il mondo online è molto più sicuro rispetto al mondo offline, dove rapine e furti sono all'ordine del giorno. Sicuramente una parte importante nella nostra vita digitale è quella del comportamento, l'abbiamo ripetuto. Nella vita fisica siamo abituati a tenere nascosto magari il nostro portafogli, a chiudere a chiave la nostra casa, invece nella vita digitale ancora non siamo abituati ad alcuni comportamenti, come ad esempio quello di cambiare, anche se è vero che è una scocciatura, ma cambiare le password, utilizzare password piuttosto complesse, quindi robuste, tutti comportamenti che dovremmo cominciare ad utilizzare. Ma i vantaggi nell'utilizzo in generale, anche i vantaggi del sistema paese nell'utilizzo del denaro digitale, sono innumerevoli e incredibili. Pensate al numero di rapine, che verrebbe naturalmente drasticamente ridotto, e poi pensate anche al costo della movimentazione del denaro, che noi non ce ne accorgiamo perché questo ricade sulla fiscalità generale, ma produrre denaro, movimentare denaro, ha un costo molto elevato, e sicuramente far girare i bit costa molto meno. Poi chi dice che i sistemi finanziari dovrebbero far pagare meno carte di credito e altre carte, questo è in parte vero, ma è pur vero che ad esempio se pensate al sistema Bancomat, che funziona molto bene ed è molto e ampiamente diffuso, sicuramente il sistema Bancomat è per molti conti gratuito e quindi facilmente utilizzabile. Bene, adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Partiamo dalla Francia, perché anche i francesi si sono arresi all'evoluzione tecnologica e al successo del web, e da oggi France Telecom ha disattivato il servizio Minitel, il sistema attivo dal 1982 che permetteva su un terminale simile ad un computer, ad un personal computer, collegato via cavo telefonico, di leggere testi, consultare informazioni di vario tipo, comunicare in vario modo, ad esempio con le chat. È stato sicuramente il sistema di questo genere di maggiore successo al mondo, e molti francesi, va detto, hanno utilizzato per primi al mondo alcuni servizi che poi si sono diffusi grazie ad internet. Pensate che negli anni 90 erano collegati al Minitel 9 milioni di dispositivi e 25 milioni di utenti, mentre oggi siamo scesi a circa 400.000 terminali. A creare una rete del genere ci aveva provato senza tanto successo anche Telecom Italia con il Videotel. Scattano da domani nuovi limiti per le tariffe di roaming imposte dall'Unione Europea per il traffico voce e quello dati quando ci si trova all'estero. Si tratta di un primo taglio alle tariffe massime, che vedrà ulteriori riduzioni il 1 luglio 2013 e il 1 luglio 2014, quando sarà pure possibile acquistare una SIM all'estero, quindi da un operatore di un altro paese, mantenendo però il proprio numero di telefono nazionale. Questo per aumentare la concorrenza. I nuovi limiti che scattano da domani sono 70 centesimi per megabyte di traffico generato, 29 centesimi al minuto per chiamata effettuata, 8 per chiamata ricevuta e massimo 9 centesimi per SMS. Digital News. Un aggiornamento sull'ACTA, il trattato anticontraffazione che ha scatenato furibonde proteste un po' in tutta Europa, soprattutto in centro Europa. Secondo Karel de Gucht, il commissario dell'Unione Europea responsabile del trattato, la votazione che ci sarà la prossima settimana al Parlamento Europeo e che dovrebbe essere negativa, non dovrebbe per il momento influire sul lavoro della Commissione Europea, che aspetterà comunque il parere della Corte di Giustizia Europea per capire se l'ACTA sia o no compatibile con il diritto comunitario. I nuovi dati Audi Web sul numero di italiani che navigano in internet ci dicono che a maggio la popolazione della rete è salita a 28 milioni di utenti, in crescita del 5,1% su base annuale, sono 14,2 milioni gli utenti nel giorno medio. Tutti guardano con curiosità e interesse al futuro di RIM, Research in Motion, l'azienda che produce i BlackBerry. Dopo l'annuncio di questa settimana di nuove perdite trimestrali, pensate, 518 milioni di dollari nel primo trimestre, 5.000 licenziamenti annunciati in tutto il mondo e il rinvio ancora una volta del nuovo sistema operativo BlackBerry 10 al primo trimestre 2013. Era atteso per l'ultima parte dell'anno, invece viene rinviato ulteriormente. Visto che il titolo, tra l'altro, negli ultimi 4 anni è crollato in borsa di quasi il 100%, si fa sempre più strada l'ipotesi di vendita di questa azienda che ha fatto buona parte della storia della telefonia mobile e dell'email in mobilità nel mondo. Tra i possibili acquirenti si parla di Microsoft e IBM. E così abbiamo concluso questa puntata di 2024. Io ringrazio come sempre i nostri ascoltatori, quelli che ci hanno chiamato oggi al nostro numero verde, che ci ha mandato SMS, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, anche le email. Potete continuare a comunicare con noi su internet, anche scrivendoci una email al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ringrazio anche Franco Piantanida oggi che ci ha aiutato in regia e Valeria Bernardi che si è occupato della parte tecnica. In questa puntata non l'ho ancora ricordato, ma è un punto importante della nostra radio e di 2024, che è uno dei programmi più scaricati della nostra offerta. Allora abbonatevi al servizio podcast, anche perché questa è la nostra ultima puntata della versione tradizionale di 2024, ma continueremo anche durante l'estate a proporvi nuove puntate in versione ridotta, mezz'ora sia il sabato pomeriggio che alla domenica pomeriggio, 15.30 e 16.30. Allora anche questa è una buona occasione per abbonarvi al servizio podcast. È tutto molto semplice. Andate sul nostro sito internet, lì ci sono una serie di informazioni, ma potete utilizzare molti client, quindi molti programmi per scaricare in modo automatico. Basta mettere un semplice indirizzo, dopodiché ci si abbona, è tutto gratis, e settimana dopo settimana, quando il sistema trova il file MP3 pronto e aggiornato, viene scaricato sul nostro computer, sul nostro smartphone, sul nostro tablet, e così uno lo può riascoltare quando vuole. E anche a pezzetti, ci sono ascoltatori che ci scrivono e dicono: io mi ascolto 10 minuti, un quarto d'ora ogni giorno, magari quando faccio un po' di ginnastica e faccio una passeggiata o una corsetta al parco. Bene, concludiamo. Tra poco ci sono le notizie di GR24 e poi lo sport. Io vi ricordo che noi continuiamo ad andare in onda la prossima settimana alle 15.30 del sabato e alle 16.30 della domenica. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi via Twitter scrivendo @e_Pagliarini oppure via email 2024@radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 31 seconds and we're